con Dario Bonazzelli di I Wonder Pictures per parlare di Reset, storia di una creazione che sarà in sala dal 12 al 14 di febbraio. Dario, ben ritrovato. Ben ritrovato a te Federico, ben ritrovati a tutti. Allora, raccontiamo subito di questo nuovo lavoro. Sì, Reset, storia di una creazione, si inserisce in un... nel palinsesto degli eventi delle I Wonder Stories, tengo sempre a ricordarlo, che sono partite già dallo scorso ottobre con il film Manifesto. Abbiamo avuto poi un altro documentario, The Paris Opera, per arrivare a fine gennaio con l'uscita sempre limitata a 2 o 3 giorni anche di My Generation, film con Michael Caine. La prossima settimana invece, San Valentino, pochi giorni prima, porteremo in una cinquantina di sale in tutta Italia Reset. Reset è un documentario francese ed è un documentario su un esperimento, diciamo, un documentario su un coreografo, uno dei più celebri al mondo, si chiama Benjamin Millepied, è un coreografo francese che fu, per dirne una, il coreografo del Cigno Nero di Darren Aronofsky. Sì, sì. Ed è una casualità, ma neanche troppo, perché curò quelle scenografie e casualmente si innamorò di una certa Natalie Portman, dal quale oggi ha un figlio. È un coreografo innovativo, è anche un primo ballerino al quale è stato proposto il ruolo di direttore del balletto dell'Opera di Parigi, sì. Ruolo che ricopre già dal 2013, e il documentario segue Benjamin Millepied e i suoi 16 danzatori nella creazione di un'opera, diciamo, ex novo. Sì, sì. Si tratta di un balletto che ha le sue origini nell'esperienza propria di Millepied e nel suo modo di interpretare una forma tanto arcaica quanto lo è lo stesso contesto, ovvero l'Opera di Parigi. Dunque il bello del seguire Benjamin Millepied è proprio vedere la sua modalità di lavoro totalmente nuova, anticonformista. Lui è un giovane molto bello, un rivoluzionario, in un'istituzione che è l'emblema dell'immobilismo, come l'Opera di Parigi. Lui si mette totalmente in gioco, cerca di portare una rottura, una rivoluzione nei codici della danza, e i registi seguono questa evoluzione in tutto e per tutto, affiancando con la telecamera dall'inizio, dalla genesi appunto di questo nuovo balletto che poi presenterà non poco di meno che al Presidente della Repubblica. Infatti due mi sembrano gli aspetti importanti e interessanti di questo lavoro: il dietro le quinte rispetto a un lavoro, uno spettacolo che va in scena, e soprattutto l'estro creativo che c'è dietro un'opera. Sì, esattamente. È interessante vedere proprio come lui stesso lavora e il suo approccio personale, intellettuale, ma anche fisico nei confronti della danza, degli spazi. Pensate che ha chiesto di cambiare tutti gli spazi, anche tutti per esempio i pavimenti, i parquet, per renderli ancora più favorevoli al ballo, così come anche le stesse condizioni di lavoro dei ballerini che lui ha scelto attraverso tantissimi per andare a appunto a generare questo balletto che ha chiamato Clear, Loud, Bright and Forward. È un balletto di 33 minuti con anche delle novità totalmente ovviamente inconsuete per un balletto, l'Opera di Parigi, che è invece un tempio istituzionale della danza. Dario, tu come l'hai trovato dal punto di vista estetico? È un documento documentario che scivola via in maniera clamorosa. È un documentario che ha poco di classico e televisivo, ma è una telecamera che segue il coreografo e lo accompagna senza mai essere troppo invasivo. È un'esperienza visivamente è di ottima qualità. È un documentario che insomma, sicuramente consiglio di vedere per chi è appassionato del mondo della cultura in generale. Io sì. Non sono un appassionato di danza, lo dico, ma mi è molto interessato scoprire questa storia e scoprire un mondo che solo una telecamera che può affiancare un personaggio di questo calibro può andare a rivelare. Un'altra curiosità: è uscito all'estero e che riscontri ha avuto? Il documentario mi coglie un po' in difficoltà. Oh. Sicuramente ha avuto un'uscita in Francia. In Francia. Il resto dei paesi che lo hanno fatto uscire al momento non mi è noto, sì. Non so proprio rispondere nel dettaglio alla tua domanda. Certo è che in Italia mi sento di poter dire che la nostra società, il Wonder Pictures, rappresenta anche un po' una peculiarità, perché sì. nel nostro listino sono presenti tantissimi documentari che poi spesso non escono neanche negli altri paesi, o comunque cerchiamo sempre di portarli al pubblico italiano, per cui sicuramente siamo certi che avrà una bella risonanza. Siamo presenti in circa 50 di schermi, sono 3 a Roma e altri 3 a Milano, per chi ci segue da Milano, e così per tutto il resto d'Italia, ma si troverà anche Genova, Torino, Padova, ma anche a Trento, Vicenza, Modena, insomma in ogni città, pressoché in ogni città d'Italia. Benissimo, allora ricordiamo Reset, storia di una creazione, dal 12 al 14 febbraio in sala per I Wonder Pictures. Dario, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a voi, a molto presto. Ciao. Ciao.